batte il mio cuore sotto il gioco dell'oppressore. Batte, batte il mio cuore in catene nel dolore. Nella mia memoria ci sei tu, senza il tuo amore non vivo più. Nella mia memoria ci sei tu, senza il tuo amore è schiavitù. Maranatha, vieni a me. Maranatha, salva la tua tribù. Maranatha, vieni a me. Maranatha, salva la tua tribù. Batte il mio cuore, cerca ancora il tuo amore. Batte, batte il mio cuore, grida ancora.